Ciao a tutti. Ciao. E benvenuti su Tutto Tranquillo, la prima puntata, il primo episodio che noi di Atmosferica, io Giacomo Vanelli e Francesca Pavesi in arte Idra. Grazie. Prego. Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura radiofonica grazie ad Exalge, Radio Exalge che ci sta ospitando. E volevamo introdurre questo nuovo mondo di musica ambient un po' alle persone che sono qua e che ci ascoltano da casa. Esatto, volevamo un po' portarvi quello che è il nostro mondo sonoro, parlando, insomma, le puntate di Tutto Tranquillo saranno un po' delle playlist. Ogni tanto inviteremo degli amici, dei musicisti, degli ospiti a raccontare le loro storie, la loro musica. E chi siamo noi? Cosa facciamo? Ma su questo ho ancora a volte dei dubbi enormi su chi siamo, che cosa vogliamo e cosa facciamo. Ma queste qua sono altre faccende che analizziamo. Io e Giacomo ci siamo conosciuti circa da un annetto che collaboriamo. Sì, un annetto e mezzo, sì. Siamo scappati sui monti per conoscerci meglio, esatto. introdurci in maniera più approfondita a livello artistico e conoscere meglio le nostre capacità, le nostre cose, che cosa vogliamo fare realmente da grandi. E ci è venuta in mente questa idea di creare questo progetto, perché non è un vero e proprio duo musicale dove ci mettiamo e decidiamo di fare i concerti, facciamo anche concerti, andiamo in giro a suonare. Ma è quello di divulgare un pochettino di più quello che è la musica ambient, quello che per noi significa la musica ambient, quello che può dare e quello che può portare. E da qui appunto poi è nato anche il nome della trasmissione, appunto Tutto Tranquillo, perché tramite la musica ambient noi cerchiamo di portare un livello di serenità. In primis a noi, probabilmente. Sì, perché ci serve un sacco, ma molto. E poi di provare a portare, di introdurre qualche cosa di nuovo anche a qualcun altro, di far conoscere un attimino di più. È un genere musicale che magari non viene molto ascoltato, seguito, comunque magari spesse volte viene anche confuso con molte cose, molte altre cose che non sono quelle che noi vogliamo portare, spiegare, provare a... non lo sappiamo neanche noi esattamente a che cosa. Però ci siamo trovati, ci siamo incontrati, abbiamo deciso di provare. Quindi abbiamo deciso di creare Atmosferica, che alla fine è un contenitore molto grande dove all'interno del quale vogliamo fare diverse attività e facciamo diverse attività proprio per portare della... Portare l'ascolto, l'attenzione all'ascolto. L'attenzione verso l'ascolto, sì. L'ascolto che poi che non è appunto, un ascolto solo di musica, no. Diventa più un ascolto di se stessi, di quello che la musica in realtà ci regala e ci dà e i pensieri poi, no? che ne arrivano. Sì, perché ti dà la possibilità proprio di stare lì, di stare fermo un attimo e di pensare a... Che a volte può essere anche scomodo, stare un po' fermo. A volte sì. Un po' una a volte sfida. Sì, se ti fermi troppo e ragioni su te stesso, a volte può essere molto problematico, molto problematico, sì. Però a volte può anche essere divertente e utile. È sempre un po' una scoperta di mondi, no? Sì, di mondi, di mondi interiori che a volte vengono fuori e che si scoprono. E ci siamo resi conto che comunque tramite queste vibrazioni, questa musica che riusciamo a produrre, Giacomo, a tirare fuori, la parola vibrazioni almeno 70. No, attenzione, perché non ho usato frequenze, che non solitamente frequenze. È la mia parola principale con la quale vado da tutte le parti. Esatto. Però tramite questi contenitori proviamo proprio a cercare la... Cercare una connessione, secondo me, è un dialogo che prima nasce tra noi due, sicuramente, e che poi vuole essere un dialogo un pochino più approfondito anche con chi ci ascolta, con chi viene a... Adesso mi viene da dire eventi, ma non sono eventi, sono proprio dei momenti di condivisione, di dialogo reciproco. Sì. Devo dirti di sì. E anche questa radio vorrebbe come fine ultimo avere quello di raccontarvi un po' delle cose, farvi entrare nel mondo della musica ambient, farvela conoscere un po' di più. E infatti proprio oggi, proprio per rompere il ghiaccio e per non vogliamo fare una trasmissione radiofonica, tra virgolette, classica, in cui stiamo qua per un'ora a chiacchierare, a parlare, a raccontarcela. Ma arriverà anche quella. Arriverà purtroppo anche per tutti quanti, anche quella, soprattutto per noi, perché non siamo abituati a farlo, ma arriverà anche quella. Ma in questo episodio di oggi, in questa puntata odierna, invece vogliamo proprio, abbiamo fatto una playlist, abbiamo scelto un po' di artisti indipendenti, amici e non. Sì, che... del panorama internazionale e nazionale, anche internazionale, esatto. Artisti anche italiani super super validi, amici, che poi probabilmente avremo modo di avere qua con noi in futuro. Esatto. E quindi abbiamo fatto questa playlist, questi 50 minuti, un'oretta di musica, che proprio vi introducono e vi proveranno a spiegare, a provare a stare tranquilli. Dovreste stare lì, sedervi, ascoltare, chiudere gli occhi, rilassarvi, fare anche le vostre cose, ma con un orecchio rivolto all'esterno e all'interno. Chissà cosa state facendo. La pasta. State cucinando. Cucinando magari qualsiasi cosa, tornando dal lavoro, chi lo sa. Magari stare lì, stare fermi ad ascoltare voi stessi, ascoltare quello che passa, quello che arriva, senza un giudizio su quello che arriva, viverselo. Assolutamente. E niente, speriamo con questo tutto tranquillo di regalarvi dei momenti tutti tranquilli e di farvi scoprire della musica che per noi sicuramente ha un tono molto magico. Sì, anche. E farvi anche un pochino parlare con voi. Sì, ma anche darvi anche la voglia di poi provare a ricercare qualche cosa, oltre che, come dicevamo adesso, che magari siamo anche ridondanti e un po' noiosi su voi stessi, anche semplicemente di andare a cercare un qualche cosa, chi sono questi artisti, curiosi. Andare a ascoltare questi artisti. Abbiamo pubblicato sul nostro profilo Instagram oggi la playlist e i vari titoli con i musicisti che partecipano in questa playlist, quindi se volete andare sul nostro Instagram, che è atmosferica, comunque lo trovate come atmosferica, da qualche parte salteremo fuori, abbiamo un bellissimo loghettino, un cerchiolino magico, troverete appunto questo post con tutti i vari artisti, provate a sentirli, andate a cercare, sperimentate, provate. E se qualcuno all'ascolto è un musicista ambient, sarebbe carino anche ricevere qualcosa da parte vostra. Noi saremmo felici di mandare la vostra musica un po' ovunque. Assolutamente sì. Quindi nulla, per oggi finiamo con le chiacchiere. Sì. Lasciamo la musica e buon ascolto a tutti quanti. Buon ascolto a tutti. Un abbraccio, buona serata. Thank you. Radio.